e qua dico alcuni. Gratuitamente, senza merito, a me l'onore così di rivolgere innanzitutto il saluto a tutti voi che partecipate a questo convegno e in qualche modo così anche di aprire i lavori del convegno stesso. Nella mia qualità di presidente dell'Istituto Trentino di Cultura, che ha collaborato con l'Associazione Italia-Austria nell'organizzazione di questo convegno, io desidero rivolgere innanzitutto all'Associazione e a tutti i membri presenti e non presenti dell'Associazione, ed in modo particolare al suo presidente, senatore Caron, il saluto più cordiale dell'Istituto, del Consiglio di Amministrazione ed anche della Provincia Autonoma di Trento, che ne è la madre, e anche della città di Trento, a voi tutti che siete intervenuti a questo convegno. Saluto particolare naturalmente e grato ai relatori del convegno e a tutti i partecipanti. Desidero anche, sempre a nome dell'Istituto Trentino di Cultura, di esprimere il compiacimento per la scelta che l'Associazione ha fatto della sede per questo suo terzo convegno di studi storici qui a Trento, dopo Innsbruck e dopo Venezia, Trento. Naturalmente noi siamo particolarmente lieti, sì, perché sia per la posizione geografica di questa regione e di questa provincia, sia per le vicende storiche della regione Trentino-Alto Adige e della provincia di Trento, sia anche direi per le istituzioni che ancora oggi reggono queste nostre terre, ecco, ci fa particolarmente piacere il fatto che questo terzo convegno sia qui collocato, il cui tema di studio poi, il cui tema Austria e province italiane dal 1815 al 1918, potere centrale e amministrazioni locali, direi che è di particolare, come dire, di particolare interesse anche per questa nostra regione Trentino-Alto Adige, appunto un po' per le istituzioni che la reggono, come prima dicevo, e per tutta la storia che dietro a queste istituzioni naturalmente c'è. Sia anche, mi sia permesso di dire, io ritengo che è anche di grande attualità anche per il nostro paese, oltretutto per l'Italia, in un momento come questo, o in un periodo come questo, dove il regionalismo diventa probabilmente ormai diventa una cosa concreta, e dove poi quella 382 che è diventato famoso ormai il numero e le sigle, la nuova diciamo attribuzione dei poteri alle regioni, fa ridiventare di attualità, dico io, l'escavazione anche delle esperienze storiche, amministrative eccetera eccetera, proprio come anche queste sono, senza dire, noi trentini in fondo amiamo dirlo e ricordarlo, che l'amministrazione austriaca, austro-ungarica, dico, qui da noi, anche nella regione nostra eccetera, viene ancora oggi ritenuta come uno dei modelli amministrativi, dico, adeguati o non adeguati naturalmente dal punto di vista politico, ma dal punto di vista amministrativo ed anche come razionalità della distribuzione della gestione del potere, ancora oggi probabilmente esemplari e comunque tali in ogni caso da poter servire oggi in un momento in cui appunto, ecco, questo qui compiacimento ed anche dico il ringraziamento, perché penso che è un contributo. Poi un terzo pensiero, se mi è consentito, per noi è anche importante questa occasione, perché questo convegno che si colloca qui, perché è anche per noi un pochino l'occasione per far conoscere forse un pochino di più e comunque per ricordare una iniziativa, e non naturalmente per farci merito o non merito, no, solo per quel tanto che può servire, l'iniziativa dell'Istituto Trentino di Cultura, che è quella dell'Istituto Storico Italo-Germanico, che ha anche sede qui e che, ripeto, una occasione come questa mi pare quella propizia per farlo un pochino conoscere e per dichiararne la disponibilità a tutti coloro che, cui un'istituzione di questo tipo, con la sua attrezzatura, eccetera, può servire. Come è noto, l'Istituto Trentino di Cultura, caro Caron, tu sai, ha emanato fra le sue attività, le sue diverse attività di natura culturale e scientifica, anche un istituto storico italo-germanico che ha avuto la sua fondazione nel 1973 qui, che ha lo scopo fondamentale, come dice poi il suo statuto, nella promozione degli studi relativi ai legami che uniscono il mondo di lingua tedesca, il mondo germanico e quello italiano nella realtà storica europea. In una dotazione, una eccellente dotazione umana, che è il suo comitato scientifico, alcuni dei cui membri sono oggi qui, anche dei più famosi, sono oggi qui anche presenti e vi saluto in maniera particolarmente calorosa naturalmente. Il comitato scientifico dell'Istituto Storico è così formato: il professor Jedin Hubert, che ne è il presidente, il professor Paolo Prodi, che è il rettore dell'università, che ne è anche il segretario generale, il professor Van Drutka, che è qui nostro oggi, il professor Roger di Trento, il professor Rebgen dell'Università di Bonn, il professor Schmidiger, che salutiamo cordialmente, il professor Corsini di Trento, che è anche qui presente fra di noi, il professor... Ecco, questo istituto si è dotato durante questi... volia soltanto di questione di tutti, e lo dico in modo particolare all'Associazione Italia-Austria e a tutti gli studiosi, eccetera, più largamente utilizzato in Austria, dell'importanza fondamentale e sempre vorrei dire più e sempre di più che avvertiamo di una reciproca conoscenza, di un approfondimento dei legami storici e della storia e della cultura che popoli così vicini hanno avuto nei secoli, e nella convinzione poi che sostanza anche la costruzione di questa Europa che viene fatta attraverso grandissime sarà più facile che indagare sulle ragioni della propria storia e della propria cultura può essere un contributo fondamentale. Ecco, quindi scusandomi un po', io ringrazio vivamente l'associazione, ringrazio tutti, rivolgo un particolare saluto al console generale d'Austria che è qui con noi e che, al quale appena chiudo cedo senz'altro la parola e desidero che si rivolga il suo saluto, e naturalmente rivolgo gli auguri che in questo convegno possa ottenere il risultato e il successo che i promotori si sono ripromessi, ed augurare anche a voi che questo soggiorno a Trento di queste alcune giornate, speriamo che il tempo non peggiori prima ma possibilmente migliori, sia anche di vostro gradimento, alle signore e a tutti voi che siete qui. Grazie. Meine sehr geehrten Damen und Herren, als österreichischer Generalkonsul in Mailand habe ich die Ehre, Ihnen im Namen von Herrn Botschafter Dr. Schlumberger in Rom, der leider verhindert ist, persönlich heute zu erscheinen, die besten Grüße und Wünsche anlässlich des dritten österreich-italienischen historischen Kongresses zu übermitteln. Ich darf auch persönlich meine Genugtuung und Befriedigung Ausdruck geben, dass dieser Kongress nun schon zum dritten Mal tagen konnte, und ich bin sicher, dass das Ergebnis dieser Reunion dazu beitragen wird, die Geschichte unserer beiden Völker in einem anderen, besseren Lichte zu sehen. Ich darf noch dazu hinzufügen, dass Herr Professor Schmidinger, der Leiter des Österreichischen Kulturinstituts in Rom, der auch gleichzeitig Mitglied des Vorstandes der Österreich-Italienischen Gesellschaft ist und auch Botschaftsmitglied ist, während der gesamten Dauer des Kongresses hier anwesend sein wird. Und darf also nochmals Ihnen ein gutes Gelingen des Kongresses wünschen. Prego, signor Presidente. Quale Presidente dell'Associazione Italia-Austria, mi è gradito innanzitutto a rivolgere il mio saluto e il mio ringraziamento a coloro che sono partecipi a questo incontro. Un saluto particolare ed un ringraziamento desidero rivolgere innanzitutto al signor Console della Repubblica Federale d'Austria, che rappresenta qui l'ambasciatore d'Austria. Occasione questa propizia per dire che abbiamo trovato noi dell'Associazione Italia-Austria nell'ambasciata, sia col predecessore ambasciatore Ender, sia con l'attuale ambasciatore Schulenberger, degli veri e propri amici e coloro che ci hanno aiutato a nascere e a crescere, anche se l'associazione è ancora giovane. Desidero ringraziare innanzitutto coloro che ci hanno aiutato, intendo aiutato l'associazione Italia-Austria per l'organizzazione di questo incontro, l'onorevole Kessler in primi, che presiede così degnamente l'Istituto Trentino di Cultura, la cui attività è ben nota a chi si occupa di cultura. Ringrazio in modo particolare il professor Prodi, segretario generale dell'Istituto Italo-Germanico, che ha attivamente collaborato e ha praticamente permesso la riuscita, perché sarà certamente un convegno ben riuscito di questo incontro. Desidero ringraziare come presidente dell'Associazione Italia-Austria, sperando di che le altre personalità non me ne vorranno se non le cito in particolare, il professor Ara, con il quale abbiamo avuto uno scambio di messaggi che ha permesso i contatti con l'Istituto Italo-Germanico e l'Associazione Italia-Austria. Questo convegno, che è il terzo, come è stato già annunciato dall'onorevole Kessler dopo quello di Innsbruck e di Venezia, verrà meglio illustrato dal professor Valsecchi e dal professor Vandruska, che ne diranno evidentemente i motivi ispiratori. Io confesso che mi trovo, come diceva Paul Valéry, a essere un barbaro in Atene, perché non sono certamente profondo negli studi storici e sono venuto qui per apprendere, soprattutto per apprendere e non per portare il mio contributo. Ma è certo che questo convegno è dedicato ad un argomento che tocca un particolare interesse nella storia delle relazioni tra i due paesi vicinori, l'amministrazione austriaca e le province italiane. E io credo che gli uomini di cultura potranno dire delle cose estremamente interessanti in un momento, come ha sottolineato l'onorevole Kessler, che l'Italia si è decisamente avviata nella via regionalistica. Secondo me, dico che gli uomini di cultura per il passato hanno avuto il grande torto di pensare che i due popoli, il nostro italiano e l'austriaco, non potessero andare d'accordo. Ma la storia vista oggi più pacatamente, più obiettivamente, come sarà certamente in questo convegno, dimostrerà che veramente vi è una complementarità tra i due paesi. E molti sono i punti che ci avvicinano e, pur essendovi dei punti che ci allontanano, sono più quelli che ci avvicinano. Io mi limito a sottolineare lo spirito che ha animato l'Associazione Italia-Austria per organizzare questo incontro. Il nostro statuto vuole precisamente che si operi nel campo culturale, nel campo economico, nel campo sociale, per cercare che i rapporti, visti un quadro europeo, tra la vicina Austria e l'Italia si svolgano sempre più in un clima amichevole. Questo incontro è precisamente una delle azioni che l'associazione ha svolto. Essa ha questo compito, l'associazione, di promuovere ed approfondire i rapporti di due paesi. Ora, noi abbiamo trovato che era giusto che Trento, l'Istituto di Cultura Trentina, l'Istituto Italo-Germanico, fossero a noi alleati, anzi vorrei dire che su loro pesa la grave responsabilità di questa pratica organizzazione, perché abbiamo sempre creduto e crediamo che Trento abbia veramente una vocazione, oltre che di altissima cultura, di avvicinamento tra i due popoli. Io termino queste brevi espressioni di saluto e di ringraziamento rinnovando l'augurio del buon lavoro di questo incontro, che vuole essere una nuova tappa del lavoro che svolge l'Associazione Italia-Austria, che ho l'onore di presiedere. Adesso facciamo una breve sospensione. Facciamo una breve sospensione adesso. 5 minuti soltanto e poi riprendiamo. Ecco, una sospensione di 5 minuti e poi riprendiamo. Poi riprendiamo a lavorare sul serio. Le autorità presenti, scientifiche, culturali e politiche, sono certo al di sopra di qualsiasi presidenza. Cominciamo con una carrellata sul passato che credo sia quanto mai utile per dare a questi convegni quel senso della continuità, cioè non solo di una tradizione ma anche di una volontà di inserirli in un continuum di rapporti scientifici nel campo storico, che credo sia la base della volontà sia dell'associazione che di tutti i partecipanti. E in questo senso che il professor Franco Valsecchi e il professor Wandruska porteranno le loro riflessioni sui due convegni che hanno preceduto questo terzo, in vista appunto di quarti e quinti e sesti e settimi e ottavi. Una parola dal punto di vista organizzativo, mi permetti Valsecchi, c'è stata una leggera modifica rispetto a programmi prima esposti, cioè domani, se loro sono d'accordo, se non ci sono obiezioni di rilievo, si finirebbe il lavoro intorno alle 11:15, si partirebbe con un pullman, una breve visita all'Istituto Storico Italo-Germanico per una presa di contatto con la biblioteca, e all'1 saremmo al Castel Toblino per una colazione offerta dalla giunta regionale, sarà presente anche il presidente della regione, Mazzari, e di lì nel pomeriggio la gita continuerà verso il lago di Garda, dove pure si cenerà. Quindi saremo di ritorno qui intorno, penso, alle 10, insomma, ecco, della sera, ecco, senza fare troppo tardi, ecco, ma in modo tale da avere una mezza giornata di pausa distensiva. Ecco, questo è il mutamento, direi, che permetterà anche di cogliere maggiormente le bellezze turistiche che invece alla sera in una cena sarebbero state un po' compresse. E oggi niente, oggi non si va, questo è importante. Oggi, oggi invece diventa una giornata di lavoro tranquillo, senza divertimenti. Ecco, quindi la parola il professor Franco Valsecchi. Terzo convegno storico italo-austriaco, si intitola questo nostro incontro. Grazie. A sottolineare la continuità con i due che l'hanno preceduto, Innsbruck e Venezia. Ed è appunto in veste, come dire, di veterano di questi due convegni, insieme all'amico Adi Wandruska, che prendo la parola per dirvi a quali criteri si sono ispirati, il programma che si sono prefissi, il carattere e il significato che intendevano assumere. Punto di partenza nel 1968, la ricorrenza del cinquantenario di quel 1918 che vide la catastrofe della vecchia Austria e la nascita della nuova. Nel 1968 un dibattito in uno dei grandi quotidiani viennesi, La Presse, sulla funzione che avrebbe potuto e dovuto assumere la cultura nel ravvicinamento in atto tra i due popoli. Vi ricordate, era il momento in cui maturava, dopo la lunga e qualche volta acerba contesa sui problemi dell'Alto Adige, la politica d'intesa. Dare a questa intesa un contenuto non soltanto politico, venire ad una distensione degli animi non soltanto negli accordi formali. Questa, la conclusione del dibattito, questa è la funzione, l'essenziale funzione della cultura: superare le incomprensioni, i rancori, dissipare gli equivoci, guardare più a fondo soprattutto, vedere più a fondo, vedere nel fondo quello che ci unisce, non soltanto quello che ci divide. Ed era la tesi appunto sostenuta in un articolo pubblicato appunto sulle pagine della Presse dal corrispondente a Vienna del Corriere della Sera, Ettore Petta. E di lì era partita la discussione, che aveva trovato larga eco dall'una e dall'altra parte. Prima a venire in questione fu la scuola, l'insegnamento della storia nella scuola. E qui fu l'UNESCO a prendere l'iniziativa, sotto l'egida e con l'appoggio delle due commissioni nazionali dell'UNESCO, l'italiana e l'austriaca, si è proceduto ad un esame comune, ad una comune revisione dei manuali scolastici, al fine di individuare le lacune, gli errori e di segnalare i giudizi arbitrari. Terreno particolarmente delicato ed essenziale. Riunioni di insegnanti e di studiosi dei due paesi, valga qui ricordare da parte italiana per tutti l'amico Mario Bendiscioli, che ha presieduto la nostra delegazione. L'austriaca mi pare era presieduto da Londra. No, era amico Novotny. Novotny, ma io facevo parte anche come sì, collega. Come sì. Anima. E appunto questi studiosi delle due parti hanno elaborato tutta una serie di osservazioni che, messe a disposizione degli autori dei testi, potevano servire di tracce di guida per colmare le lacune e correggere gli errori. Poi il presidente regionale del Tirolo, il dottore Valneuf, avanzò l'idea... Non è dottore. Il titolo esatto Landeshauptmann, contadino e fiero Valneuf, contadino. È un personaggio economista di notevole consistenza. Landeshauptmann. E avanzò l'idea di una pubblicazione sui rapporti Austria-Italia, una pubblicazione che andasse più in là delle solite indagini d'occasione, che risalisse dalla politica in atto alla storia, almeno all'ultimo secolo di storia. L'idea di un'opera in comune, affidata in comune agli storici dei due paesi. E fu ancora l'UNESCO, le due commissioni nazionali dell'UNESCO, a riprendere il progetto, promuovendo la pubblicazione di una, la chiamarono storia a due voci, una storia dei due paesi ad opera di autori dei due paesi, che fornisse al lettore una versione dei reciproci rapporti al di fuori e al di sopra dei termini convenzionali invalsi, al di fuori e al di sopra delle vecchie e delle nuove polemiche. Da parte italiana fu Silvio Forlani a assumere l'incarico, frequentatore assiduo, ci incontravamo sempre allo House of Staatsarchiv. E tra i nostri storici quelli che hanno maggiore familiarità con la cultura e lo spirito viennese, e da parte austriaca Adam Wandruschka, tanto nomini, non ha bisogno certamente Adam Wandruschka di una presentazione in Italia, voi lo sapete meglio di me, è vero, il suo Pietro Leopoldo, tradotto nell'edizione italiana da Vallecchi, fa testo della storia del riformismo toscano, non solo, dell'illuminismo italiano, membro dell'Accademia dei Lincei, partecipe attivo, vivo e attivo degli studi in Italia. Wandruschka è da noi di casa, è uno di noi, sarei per dire è uno dei più insigni storici italiani. Esageri, esageri. E legati come siamo, lui ed io, da una lunga fraternità d'armi, sul terreno accademico, la nostra collaborazione veniva da sé, per prendere l'iniziativa. Ed è con lui che vennero concertati concreti accordi per realizzare un piano di lavoro preciso e concreto. Una serie di incontri tra storici italiani ed austriaci per discutere insieme i punti controversi e soprattutto i problemi più significativi. Adam Wandruska e Ludwig Jedliska, titolare della cattedra di storia contemporanea dell'Università di Vienna. Ci dobbiamo alzare. Eh? Ci dobbiamo alzare. Sarebbe un bel gesto. Sì. Scusate, il collega carissimo Ludwig Jedliska, che è prematuramente scomparso di recente, e lo vorrei ricordare qua con voi con affettuosa riconoscenza e con commosso rimpianto. E così si mobilitarono gli esperti del mondo austriaco, del mondo accademico austriaco ed italiano, e non solo del mondo accademico. Perché è interessante, tra i convenuti, per esempio, austriaci, c'era Klaus Gatterer, arguto e qualche volta anche pungente commentatore delle alterne vicende dei rapporti Italia-Austria. C'era Frau Hofrat Victoria Stadelmeier, eminente funzionario dell'amministrazione regionale tirolese, appassionata combattente per la causa altoatesina dall'altra parte della barricata. E a fianco si è iniziato questa collaborazione, questo attento, convinto, direi anche fervente lavoro. Il primo incontro a Innsbruck nell'ottobre del 71 era dedicato al passato più recente, al mezzo secolo tra il Risorgimento e la Prima Guerra Mondiale, fino ai trattati di pace, quel trattato di San Germano che chiude l'antico ciclo, burrascoso ciclo dei rapporti italo-austriaci, e ne apre uno nuovo, anch'esso non senza burrasche. Programma sgombrare il terreno dei luoghi comuni, emanciparsi dalle ristrette, dalle immediate prospettive della lotta, giungere a una prospettiva storica più ampia, più aggiornata. Secondo incontro a Venezia si muoveva su un terreno non meno scottante, da San Germano ad oggi, nazismo, fascismo, problema dell'Alto Adige. E infine le vie dell'intesa. Le vie dell'intesa dopo le vie della contesa. Anche qui una revisione storica. Il concetto era questo, è vero, passare dalla politica alla storia. È vero, una revisione storica di una visuale politica. L'accento batte sempre sul metodo. Il metodo della scienza, l'indagine scientifica, il giudizio critico. Insomma, degli storici al servizio della scienza storica. La reciproca conoscenza come la via più solida, più sicura per la reciproca comprensione. Questo terzo convegno, è stato già detto e molto efficacemente, occupa un posto a sé, si volge a un campo ben definito e concreto, all'amministrazione. Indagine tecnica che si apre, è stato notato, ad una problematica molto viva, campo che non è stato in fondo scavato, che saltuariamente non è stato oggetto di un esame complessivo, un disegno che ancora mancava nel quadro d'insieme. Permettete per chiudere, come veterano, vi ripeto, di questa battaglia, che io esprima la riconoscenza appunto del veterano a chi ti ha reso possibile riprendere il cammino che era stato interrotto da qualche anno, è vero, Venezia è del 74. Il 72. 72? 72. Venezia. Quindi vedete, 5 siamo anni già di 5 intervallo. Anni. 5 anni di intervallo. Senatore Caron, anzitutto, è vero che come presidente dell'Associazione Italia-Austria è stato di questo nostro incontro il promotore, l'amico Paolo Prodi, che ne è stato l'animatore e realizzatore sotto l'egida di questo vostro istituto storico italo-germanico di Trento, che è veramente la sede più qualificata per il prestigio scientifico di cui gode, per i fini che si prefigge, ed è stato anche questo efficacemente detto, per la città a cui appartiene, questo vostro Trento, nella quale, per la quale, è stato detto, il nostro convegno assume un significato, un valore, un rilievo particolare. E una parola ancora, permettete, di ringraziamento per Angelo Ara, l'amico e il collega Angelo Ara, al quale si deve il progetto iniziale e al nostro incontro è un valido contributo alla sua attuazione. Ed è con lui la nuova generazione che riprende con noi il cammino iniziato ormai 10 anni fa, in quel lontano 1968. La nuova generazione. Una ragione di più per essergli grati. Ho finito. Meine Damen und Herren, bevor ich eigentlich nur ein paar Worte zu dem, was mein Freund und Lehrer Walsecki hier Ihnen gesagt hat, hinzufüge, möchte ich noch eine sozusagen offizielle Pflicht erfüllen. Ich darf Ihnen die Grüße und besten Wünsche des Präsidenten der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Herrn Professor Dr. Herbert Hunger, überbringen und ebenfalls die Grüße der österreichisch-italienischen Gesellschaft, der Schwester der Associazione Italia-Austria. Adesso mi permettete, se passo all'italiano, credo che, dato che la maggior parte del pubblico parla, capisce meglio l'italiano, noi abbiamo tenuto sempre il principio nei nostri convegni che quello che ognuno parli la sua lingua, e così anche in questo convegno, per esempio, ci saranno 3 relazioni in tedesco, ma voi permettete, la questione della lingua non è più adesso una questione di prestigio o di principio, eccetera. Allora io credo che, per semplice ragione di tradurre, eccetera, forse è meglio che io parli in italiano. Prego di scusare i miei sbagli, perché l'italiano non è la mia lingua, ma ciò nonostante credo che sia per il momento preferibile. Ho pochissimo da aggiungere a quello che ha detto l'amico Walsecki. Lui magistralmente vi ha dimostrato lo sviluppo di questa idea, e mi sono anche personalmente molto grato, a nome di tutti gli austriaci, per le belle parole che lui ha dedicato al compianto amico Jedlička, perché Jedlička proprio dal primo momento ha risposto all'appello del Landeshauptmann Wallnöfer, scusate, quando Wallnöfer ha scritto questa proposta, perché alla critica di Ettore Petta, che in questa occasione del cinquantenario della vittoria in Italia, cinquantenario della dello smembramento, della dissoluzione dell'Austria-Ungheria e della nascita della nuova Austria, gli storici italiani e austriaci avrebbero dovuto collaborare. Allora Valnoev ha risposto: non è ancora troppo tardi, si può farlo, e lui ha subito messo anche una certa somma a disposizione. E Jedlička, che in quel momento si trovava in ospedale dopo un'operazione che in un certo senso poi è stato il preludio del suo tragico sviluppo poi che ha portato alla sua morte, ha scritto ancora dall'ospedale una lettera a Valnoev mettendo a disposizione di questa impresa se stesso e il suo istituto, con tutta la sua grande capacità organizzativa. E infatti lui è uno dei pochi, io credo l'altro sarebbe il generale Mondini, che ha fatto una relazione in tutte e due tutti e due i convegni, sia nel primo a Innsbruck, sia nel secondo a Venezia, all'isola di San Giorgio. Questi due, gli atti di questi due convegni sono stati pubblicati. Per la sollecitudine e l'energia dell'amico Valsecchi, molto presto, in due numeri speciali della rivista dell'Università di Roma, Storia e Politica, e da noi dall'Accademia delle Scienze, in un volume Innsbruck e Venedig in tedesco, tutto tradotto in tedesco. Questo ha durato naturalmente un po' di tempo, perché intanto si era formato, e questa idea era anche di Jedlička, con lo scopo di istituzionalizzare un po' l'impresa, che questa cosa venga sotto la protezione o sotto messa incorporato in qualche maniera, istituzionalizzato presso l'Accademia Austriaca delle Scienze. Si è formato una sottocommissione Italia e Austria nell'età moderna, e di cui fa parte anche l'amico Valsecchi, che è socio corrispondente della nostra Accademia delle Scienze. E ci fa parte anche il professor Englianoci, che è anche stato già uno dei veterani, perché anche lui presente con Angelo Ara anche ai due convegni di Innsbruck, e anche il professor Englianoci e Angelo Ara hanno tenuto relazioni. Ora, questi libri, il libro non ve l'ho portato perché è troppo pesante, ma credo che l'amico Buttarini lo porterà poi a vedere, questo nostro volume Innsbruck-Venedig, col titolo Innsbruck-Venedig. Hanno trovato una eco delle recensioni abbastanza positive. Proprio poche settimane fa ne è uscita una recensione, perché recensioni c'erano nei giornali austriaci, anche in Germania, nei più grandi giornali italiani, germanici, per esempio dall'amico Lille c'era una recensione. Poco fa è uscita una recensione molto dettagliata e critica anche nelle Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, scritta dal professore Josef Riedmann di Innsbruck, che ha pubblicato anche poco tempo fa, pubblicato dalla nostra Accademia delle Scienze, un grosso volume sulle relazioni fra il Tirolo e l'Italia nel Medioevo, un volume che è molto importante. Riedmann, che è stato anche uno dei dei veterani, si può dire, sono sempre gli stessi nomi che vengono, faceva già parte di quella commissione per i testi di scuola di cui ha parlato l'amico Valsecchi, di cui era presidente della delegazione italiana il professor Bendiscioli, che è qui. Rittmann, che poi è stato borsista, credo, anche, e poi, poi relatore ai seminari di Villa Tambosi, così lui è un, anche lui un buon conoscitore di questi problemi. E lui ha sollevato alcune critiche anche, e queste sono sempre più interessanti, sa, le cose positive sono, fanno piacere, ma le cose critiche stimolano. Una delle sue critiche si trattava del problema della traduzione e della terminologia. In una di quelle relazioni di, dell'isola di San Giorgio, un dottissimo collega italiano ha fatto una grande relazione che poi nel testo stampato è ancora più largo perché non poteva fare, dove ha usato sempre le la parola o le parole alloglotti e allogeni per gli altoatesini di lingua tedesca o sudtirolesi. Ora nella traduzione questo fu usato la parola Fremdstämmigen o Fremdsprachigen, e questo suona ancora peggio della parola alloglotti o allogeni. Noi non, nella traduzione non abbiamo voluto cambiare, non potevamo cambiare, e naturalmente io lo cito soltanto come esempio perché io credo che l'amico De Felice non aveva nessuna intenzione di offendere, ma dato che lui era tanto negli atti di, del periodo fascista col suo enorme lavoro sul, su Mussolini, allora usava sempre questa parola alogeni e alloglotti, che in tedesco appunto suona un po' male. Altra osservazione di Rittmann, dice: è un peccato che non siano state pubblicate insieme con le relazioni anche le discussioni. Certo, ma qui siamo in, nel problema tecnico e anche finanziario, perché prima di tutto a Eagles, lì al Grillhof, non ci avevamo neanche pensato, era il primo tentativo, eravamo nella fase fase iniziale, sperimentale, e non avevamo le discussioni, non avevamo una registrazione, e sarebbe stato troppo difficile. All'isola di San Giorgio, alla Fondazione Cini, c'era la registrazione, ma poi anche per ragioni di ordine finanziario non l'abbiamo pubblicato con le discussioni. Ed ha certamente ragione Rittmann se dice: così c'è l'impressione più di un nebeneinander che di un miteinander, più di un, uno accanto all'altro e non di una confluenza, di un dibattito che porta a cose a un accordo. Ora io credo che naturalmente non si potrà mai evitare tutte le sfumature, e non è neanche necessario, perché è chiaro che certe questioni vengono viste dalla parte di un italiano un po' diversamente che non dalla parte di un austriaco, ma l'importante è che non ci siano, e questo credo anche in questi atti si vede già, in questi atti già pubblicati, che non ci siano proprio delle contrapposizioni veramente sostanziali. E noi siamo riusciti, credo, con la pubblicazione di questi atti già di dimostrare che non c'è nessun problema così scottante nella storia dei nostri due popoli che non può essere affrontato con animo sereno, con animo cerca soltanto la verità storica e che non vuole né rinfocillare vecchi rancori, ma neanche passarci sopra con diciamo della retorica, di una retorica pacifista. Esiste una retorica bellica, esiste anche una certa retorica pacifista. Noi non vogliamo né dedicarci né adoperare una retorica pacifista, né una retorica, naturalmente ancor meno una retorica bellica o guerriera. Io credo così che andando avanti di questo passo, e qui abbiamo la registrazione e magari se sarà possibile di pubblicare anche gli atti di questa seduta, dovremmo parlarci forse qui o forse anche per la parte tedesca, in lingua tedesca, di nuovo la nostra Accademia delle Scienze, perché noi vogliamo continuare, che forse arriveremo anche alla pubblicazione delle discussioni. E con ciò, augurando il buon esito di questa impresa, ringraziando anche da parte mia l'amico Angelo Ara, che dall'anno scorso ha cercato di mettere insieme questo bel programma, io ho finito. Ecco, ringrazio vivamente e non formalmente soltanto i professori Varsecchi e Vandusca, perché hanno, credo, creato il clima del convegno, cosa estremamente importante, perché questo è lo spirito appunto con